È lunedì 23 dicembre e intanto guardiamo i titoli. Il Sole 24 Ore apre su che cosa? Il fisco alza il tiro sui risparmi, le tasse sfiorano i 18 miliardi. L'edizione del lunedì con le cifre, e sono cifre che non mettono di buona predisposizione d'animo. Per il Corriere della Sera invece il titolo di apertura di prima pagina è gli inganni del Salva Roma, le lobby snaturano il decreto e il governo mette la fiducia. Per Repubblica invece il lavoro e Matteo Renzi, lavoro sì di Letta al piano Renzi, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece IMU si paga fino a 300 euro. La vicenda invece delle proteste all'interno del centro di identificazione e espulsione di Lampedusa e l'apertura della Stampa, clandestini espulsi in un mese, esplodono le tensioni nel centro e anche per l'Unità i dannati di Lampedusa, questo è il titolo di prima pagina. Prende spunto da questo il Giornale per fare un titolo di accusa nei confronti del ministro Kyenge. Il titolo è Caos immigrati, il PD scarica la Kyenge, questo è il titolo di prima pagina del Giornale. Mentre invece Natale, la festa ce la fanno loro, loro sono i politici, è il titolo del Fatto Quotidiano di prima pagina. Vogliamo partire proprio da qui, da questo decreto Salva Roma che si sta trasformando davvero nel classico assalto alla diligenza un po' vergognoso. Beh, l'articolo più interessante che vi segnalo è quello di Sergio Rizzo a pagina 3 del Corriere della Sera. Da Salva Roma a Salva Tutti, assalto per i milioni a pioggia, questo è il titolo dell'articolo di Sergio Rizzo, che scrive: nelle lanterne semaforiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade a incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia LED. Con questa prosa piuttosto incerta, supremo sprezzo del ridicolo, nel passaggio in Senato del decreto cosiddetto Salva Roma hanno infilato anche questo. Certo, è arduo immaginare che in un paese normale serva una legge approvata dal Parlamento per cambiare le lampadine fulminate dei semafori, ma questa è la prova che di normalità è davvero difficile parlare quando qui si fanno le leggi. Perché? Prendiamo il decreto di qui sopra. Il governo l'aveva fatto per risolvere la rogna degli 864 milioni di debiti spuntati nei conti di Roma Capitale, ma già sapendo di far partire una diligenza destinata all'assalto generalizzato. Ed eccolo qui l'assalto. Nel decreto Salva Roma, sentite bene cosa c'è, 20 milioni per tappare i buchi del trasporto pubblico calabrese. E che c'entra con Roma? Boh, però. 23 milioni per i treni della Val d'Aosta. Ma come? 500.000 per il comune di Pietrelcina, di paese di Padre Pio. Ma a Roma, decreto Salva Roma. 1 per le scuole di Marciano, in Umbria. Ma è il decreto Salva Roma. 1 per il restauro del palazzo municipale di Sciacca. Ma è Salva Roma. Ancora 500.000 per la torre anticorsara di Porto Palo. 1.000.000 a Frosinone, 3 a Pescara, 25 a Brindisi, norme per il Teatro San Carlo di Napoli, per la Fenice di Venezia, una mini sanatoria per i chioschi sulle spiagge, disposizioni sulle slot machine, sulle isole minori, sulla Croce Rossa, sul terremoto dell'Emilia Romagna, sui beni sequestrati dalla criminalità organizzata, l'istituzione di una sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia all'aeroporto di Milano Malpensa per l'Expo 2015. Ma il decreto Salva Roma, ma che c'entrano queste cose? Una persona normale direbbe, questo è il dato di fatto. Insomma, questo è, per non parlare di alcune perle, continua Sergio Rizzo. Una, per esempio, è questa. Senti anche tu, Paolo Corleoni, poi ti chiedo di spiegarmi che vuol dire. All'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14, il comma 4 bis è abrogato, al pari del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948 numero 421, ratificato con modificazioni dalla legge 5 marzo 1957 numero 104. se non avete capito il tema che stiamo trattando, tranquilli, molto probabilmente non lo capiscono neanche in Parlamento, nel momento in cui lo approvano, ma come racconta Sergio Rizzo, la vicenda, al di là delle ironie che può suscitare, c'è una norma, fa sapere Rizzo, approvata dal Parlamento 4 anni fa, che impone di scrivere le leggi in modo chiaro e comprensibile a tutti. Ecco, questo è una parte del decreto Salva Roma. Ora capite che questo ha suscitato molte polemiche. Un'altra polemica molto forte è questa, sempre più complicata, dei cosiddetti affitti d'oro. Parlamento e Camera spendono milioni e milioni di euro, pare ne siano stati spesi 400 milioni e anche di più in questi anni per affittare alcune sale, perché non tutti i senatori, alcuni immobili, non tutti i senatori stanno lì al Senato, non ce la fanno a stare tutti. Allora è questo scandalo dei cosiddetti affitti d'oro con la società proprietà di Sergio Scarpellini. Il Movimento 5 Stelle nei giorni scorsi aveva fatto passare un emendamento alla Camera che cancellava questi affitti d'oro, appena se ne sono accorti al Senato hanno soppresso questo emendamento. Ci hanno riprovato ieri, nel senso hanno provato a rimettere questo limite, questa abolizione degli affitti d'oro. Ancora i grillini ci hanno provato, ancora una volta, questa volta la Lega ha scoperto che è stato messo un emendamento per sopprimere la soppressione, una roba veramente incredibile. Affitti d'oro, le barricate dei grillini, se restano blocchiamo la Camera, così titola Repubblica pagina 10. Tra l'altro anche Matteo Renzi dice i 5 Stelle hanno ragione. Silvio Buzzanca racconta: le ferie incombono, i decreti legge scadono, le norme entrano e escono dai testi in un balletto folle, spesso ridicolo, in un caos che ha poco di creativo. Capita per esempio ai commi fatali che dovrebbero dare ai poteri pubblici il potere di disdire i contratti di costosi palazzi. Ieri era il giorno del trionfo del fronte contrario agli affitti d'oro, con i grillini a rivendicare l'entrata in vigore della norma che, tanto per fare un esempio, avrebbe permesso alla Camera dei Deputati di lasciare il salatissimo Palazzo Marini di proprietà di una società di Sergio Scarpellini. Ma tutti d'accordo, ma poi i leghisti hanno scovato un codicillo della legge di stabilità che il Senato dovrebbe approvare oggi, che svuota la presunta vittoria dei moralizzatori. Ed ecco, così è tutta una serie di emendamenti contro emendamenti. Uno fa un emendamento per cercare una cosa e subito l'altro, abile, magari aiutato da un funzionario, piazza il codicillo per neutralizzare quella stessa norma. Il Parlamento salva gli affitti d'oro, è il titolo anche di pagina 5 del giornale. E tra l'altro Beppe Grillo fa una dichiarazione che il Fatto Quotidiano mette a pagina 3, dicendo come una sorta di esclusiva al Fatto Quotidiano. Sentite cosa dice Beppe Grillo, ma insomma sono poche parole, e che sono queste: un giorno la smetteranno di chiamarli grillini, i nostri eletti lavorano seriamente. Ecco. Qua, questa è la dichiarazione di Beppe Grillo al Fatto Quotidiano. È finita l'epoca in cui i giornali parlavano degli scontrini, si sono dovuti rassegnare, non senza imbarazzo, ma rassegnati. Oh, ma ha rubato l'hashtag che io uso su Twitter, rassegnati. A proposito di Twitter, se volete seguire, io vi ricordo anche il mio profilo, è Alino Milan, è ufficiale, è aperta oggi e si apre oggi la 34esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 34esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. A proposito di province, oggi su tutti i giornali e da un paio di giorni leggerete il dibattito sull'addio alle province. È stato dato il primo sì al disegno di legge ordinario per svuotare le province. Su questo c'è molto dibattito. L'addio alle province nel 2015, racconta il Corriere. Ah, quante settimane ancora. Nel 2015 risparmi per 1 miliardo l'anno, si arriverà a questa cifra. Ma ci sono già 72 casi in cui già non si voterà nei consigli provinciali che vengono a scadere quest'anno, racconta Alessandra Arachi sul Corriere. Lo chiamano il DDL Del Rio, dal nome del ministro. È lo strumento scelto dal governo per abolire le province, approvato sabato alla Camera, si punta a farla approvare al Senato entro la fine di gennaio. Non è una legge costituzionale, avrà un iter dunque ben più lungo, è un disegno di legge ordinario pensato come prodromo, cioè come premessa per l'abolizione. È così, la premessa per l'abolizione. Trionfo del ministro Delrio, che è intervistato da Francesca Schianchi sulla Stampa, dice: per lo Stato un miliardo di risparmi, e dice: i risparmi certi al momento sono 160 milioni dovuti al fatto che 5.000 politici non verranno più pagati adesso che non si rinnoveranno consigli provinciali, ma si stimano altri risparmi importanti perché le province non si occuperanno più di alcune funzioni come turismo, cultura, sport, promozione di ferie, che vengono svolte a livello comunale. Noi presumiamo risparmi attorno al miliardo di euro. Tra l'altro, racconta Delrio, resta il nome province perché si può cancellare solo con una riforma costituzionale che è avviata parallelamente. Più abolizione di così non c'è, assicura Delrio, visto che viene tolto tutto il personale politico e l'elezione diretta e diventano agenzie di servizio di comuni per fare cose che a livello comunale non si fanno. Tra l'altro rassicura tutti i dipendenti delle province: abbiamo fatto un protocollo d'intesa con i sindacati, i dipendenti seguiranno le funzioni a cui sono preposti, chi per esempio si occupa di cultura passerà al comune, non licenzieremo nessuno, assicura il ministro Delrio. Faremo un decreto di accordo con i sindacati per non disperdere professionalità. Ma su questo c'è molta battaglia. Il presidente dell'Unione delle Province, Saitta, dice: ma quali tagli, le spese raddoppieranno e avremo servizi peggiori. E dunque racconta di come Saitta in realtà è un qualcosa che non porterà degli aspetti positivi. Sta di fatto che si litiga molto, per esempio per il secolo XIX è via le province, spuntano 20 aree metropolitane, e cioè alle province si sostituiscono solo le aree metropolitane, ma la situazione più o meno rimane la stessa. A proposito di impazzimento della situazione italiana, che dire quello che succede a Bassano del Grappa, dove Repubblica racconta a pagina 29 viene soppresso per la riforma giudiziaria che rivede la geografia dei tribunali, viene soppresso il tribunale che è stato appena inaugurato. Ecco il nuovo tribunale soppresso il giorno dopo. Jenner Meletti racconta su Repubblica: sembra di entrare in un hotel a 5 stelle con i pavimenti in marmo rosa di Asiago al piano terra, parquet di legno al primo e secondo piano, luci che si accendono da sole quando entri in corridoio in stanza. Ecco, questa è la sala udienze più grande, da una parte gli avvocati, dall'altra il pubblico, al centro i giudici. Tutto predisposto anche per il processo telematico. Peccato che questo sia un viaggio in un tribunale mai nato, perché il funerale è arrivato pochi giorni prima dell'inaugurazione. I lavori sono finiti, raccontano gli avvocati, all'inizio di settembre. Il giorno 13 dello stesso mese il tribunale è stato soppresso, come altri 31 in tutta Italia, assieme a 31 procure e 220 sezioni distaccate. Quel 13 settembre hanno fatto anche l'ammaina bandiera, col tricolore tolto dal balcone della procura, e il procuratore Carmelo Ruberto e i due sostituti con le lacrime agli occhi. E vabbè, insomma, succede anche questo. Inaugurato, soppresso. Eccoci qua. Voglio salutare anche chi è? Alberto? Il debosciato Alberto, che mi dà del debosciato. Ti sembra l'ora di arrivare, ma io sono arrivato alla solita ora, che devo fare? Palinsesto natalizio, qua il Parlamento va in ferie, si immagina che il 23 dicembre possiamo svegliare Nicole Minetti per farci offrire un caffè. Dai, su, caro Alberto, faccia il bravo. Va bene, continuiamo la rassegna stampa. Ma voi diteci, state andando a lavorare? C'è un giorno normale oppure gli unici sfigati siamo qua noi? 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, vi ricordo. E continuiamo la lettura dei giornali con le notizie che sono pubblicate qua e là, continuando dal Sole 24 Ore. C'è una novità in arrivo che era già annunciata e che ora è prevista in maniera definitiva quando verrà approvata la legge di stabilità che riguarda gli affitti. Gli affitti, stop al contante contro gli affitti in nero. Questo è pagina 2 del Sole, come racconta in tutti i particolari Cristiano Dell'Oste. Che cosa si voleva contrastare, racconta Dell'Oste, le scene di ordinaria evasione, l'inquilino che incontra al bar il proprietario, gli consegna 8 banconote da 50 euro e l'affitto del mese, non ci sono contratti scritti e nell'alloggio risulta residente la moglie del proprietario che è anche intestataria delle bollette, il proprietario non deposita il denaro sul conto corrente, pensando a situazioni così che la legge di stabilità per il 2014 introduce l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative di qualsiasi importo con forme e modalità che escludano l'uso del contante. Sono comparse anche le locazioni transitorie a studenti e quelle turistiche. Quindi anche le locazioni transitorie a studenti e anche le case per turisti. L'unica eccezione è prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A parte questi alloggi, tutto il resto dal 1 gennaio bisogna pagare non in contanti, ma con altri strumenti. L'altra notizia, sempre dalla legge di stabilità, riguarda il pubblico impiego e dunque i milioni di italiani che sono statali. Non è una bella cifra quella che trovate a pagina 5, l'articolo di Gianni Trovati, conto da 12 miliardi per gli statali. In 5 anni maxi risparmi sui costi del personale, 12 miliardi di euro tra il 2010 e il 2014, a cui si aggiungono i risparmi strutturali nel tempo rinvigoriti dalla legge di stabilità. Questo è il conto che il pubblico impiego si è visto servire finora dalla crisi economica e dall'esigenza di stringere la spesa. Dunque la legge di stabilità 2014 conferma anche per il prossimo anno il congelamento di rinnovi contrattuali e stipendi individuali, l'estensione del blocco al Servizio Sanitario Nazionale e ferma anche la misura dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 ai valori in vigore al 31 dicembre 2013. Questi alcuni provvedimenti, poi altri. Insomma, la questione è la morsa nei confronti degli statali porta a un conto di 12 miliardi a loro spese. E che dire, le uniche buone notizie sono le discussioni che sono state rilanciate sulla questione dell'impiego, perché ieri Matteo Renzi, segretario del PD, è andato da Fabio Fazio che fa a rilanciare la questione dell'impiego. Il titolo del Corriere della Sera è un po' roboante: Renzi, mi ispiro a Obama che ha aumentato l'occupazione. Pagina 8 del Corriere. 2 anni di sussidio per tutti. Tra l'altro, dice Renzi, è obbligatorio anche il servizio civile, questo rilancia. Ma è sulla questione del lavoro. Finora solo un cittadino su 3 era protetto. Con questo piano tutti avranno 2 anni di sussidio. Nel frattempo ci sarà un sistema di formazione professionale serio. Tra l'altro c'è chi, come il leader della CISL, Bonanni, sentito dal Corriere della Sera da Antonella Baccaro, dice: beh, ma sono un po' le mie idee. Era da tempo che la CISL lanciava queste proposte e ora vedo che Renzi le ha fatte sue. Raffaele Bonanni, racconta al Corriere, non sa se essere più sorpreso o soddisfatto. Le indiscrezioni di questi giorni sul piano del lavoro del neo segretario del PD Renzi, cioè contratto unico per i neoassunti, formazione continua, partecipazione dei lavoratori alla gestione, coincidono con alcune delle tesi a lui più care. Non ci crede, dice Bonanni ad Antonella Baccaro. Legga qui, porgendo una sua lettera a un giornale in cui chiede che si affrontino i nodi da cui troppo tempo il paese è legato. Come? Con la sperimentazione per 3 anni di un contratto unico che trasformi tutti quelli precari in graduale assunzione a tempo indeterminato. Un articolo del 2001. Con ciò si dimostra che il nostro sindacato era molto avanti. Quando proposi queste soluzioni, invece, successe l'ira di Dio. Ma i tempi ora sono maturati, così dice Sergio Bonanni. Tra l'altro, una sponda anche timida viene a Matteo Renzi dal ministro del welfare Enrico Giovannini, che viene intervistato da Repubblica, da Roberto Mania. L'intervista la trovate a pagina 4. Per la verità Giovannini è uno che spesso viene messo anche nel mirino di Matteo Renzi come possibile obiettivo di un rimpasto di governo voluto dal neo segretario del PD. E invece ora Giovannini dice bene Renzi, il titolo dell'intervista è «Finalmente non si parla più di IMU». Il contratto unico è una buona idea, ma non per le aziende ancora in crisi. Giovannini dice, che ne pensa e condivide la proposta del contratto unico con tutele crescenti? Vorrei dire intanto, risponde Giovannini, che sul fronte della flessibilità in entrata è stato fatto molto per ridurre quella che potremmo chiamare flessibilità cattiva. Gli ultimi dati sulle assunzioni mostrano che su 2,4 milioni di nuovi contratti, 1,6 milioni sono a tempo determinato, 400.000 a tempo indeterminato, 175.000 collaborazioni, 60.000 contratti di apprendistato, 80.000 intermittenti, 55.000 gli altri. Mi basta far notare che nel 2012 gli intermittenti erano 236.000. Certo, in parte è la causa è la crisi, ma in ogni caso le forme super flessibili di ingresso nel mercato sono state ridotte a favore del tempo determinato. Al che Repubblica chiede, sta dicendo che è diminuita la precarietà, ministro? Dico che certamente si è ridotta la cosiddetta flessibilità meno tutelata. L'aumento dei contratti di apprendistato e a tempo indeterminato, su cui hanno influito anche le 35.000 assunzioni basate su incentivi che abbiamo varato da giugno, dimostra che qualcosa si sta muovendo anche nel mercato del lavoro, per quanto solo la crescita crea lavoro. E alla domanda però decisiva, che è la proposta Renzi, è favorevole al contratto unico, risponde così Giovannini, non sono contrario a discuterne. Certo è determinante come si scrivono le norme. Bisogna comunque distinguere tra situazioni aziendali. Per le imprese che crescono potrebbe essere vantaggioso assumere a tempo indeterminato con tutele crescenti. Cosa diversa per le aziende ancora in difficoltà. Comunque su queste proposte di Renzi... Anche Enrico Letta dice sì, disco verde di Palazzo Chigi, questo è il titolo di pagina 3 di Repubblica, tutto quello che crea occupazione va bene, questa è la posizione di Enrico Letta. Goffredo De Marchis racconta a pagina 3 che Enrico Letta fa dire ai suoi tutto quello che serve a creare occupazione va bene, ma attenzione a non pensare di avere la bacchetta magica, perché dare l'illusione che si possa cambiare tutto e subito è un rischio, perché non è così. Dunque, approvazione ma con cautela. Tra l'altro oggi Letta parlerà alla conferenza di fine anno e siccome Enrico Letta parla, pare che Berlusconi sia un po' geloso. Questo almeno a raccontare dai giornali, tanto che starebbe studiando Berlusconi oggi un blitz a Roma. Perché non vuole rimanere nel cono d'ombra delle dichiarazioni di Enrico Letta, e questo lo racconta il giornale. Il CAV pronto al blitz a Roma per dare la scossa a Forza Italia, l'articolo di Adalberto Signore a pagina 10, ma anche Repubblica, il Berlusconi è pronto a un repulisti, dice ai suoi penso alle prossime elezioni, e tra l'altro a questo ripulisti vuole cercare nuove persone, vuole fare questo casting, vuole cercare nuovi giovani, e ha affidato il compito a Galan, che è uno che ha fondato Forza Italia già nel 94, intervistato da Repubblica da Tommaso Ciriaco a pagina 15, dice alla domanda parlo con il reclutatore di talenti, Galan ride in risposta, oppure possiamo dire che mi è stato chiesto di individuare nuovi ingrati, magari ci sarà qualche gelosia per questa mia attività di scouting, ma i coordinatori regionali stiano tranquilli, il loro lavoro non finisce, poi gli ex amici del nuovo centrodestra ci hanno fatto un grande piacere liberando posti in lista, lei lo dice brutalmente, ma è così, ci ha lasciato i voti, hanno liberato posti. Noi comunque pensiamo a individuare le persone per costruire una squadra utile al governo dell'Italia. E insomma, dice Galan, punto a cercare nuovi anche intellettuali, visto che dice ci mancano gli intellettuali nel 94, li cercherò io tra scrittori e docenti. Pescherà anche nel mondo della TV? Certo, la RAI è la più grande fabbrica culturale del paese. Ho fatto il ministro, conosco un po' di gente, altri me li segnaleranno. Fino alle elezioni cercherò docenti universitari, scrittori, economisti liberali, gente delle fondazioni. Si schierino! E agli amici consiglio, domenica 25 maggio non prendete impegni. Ecco che si rilancia l'idea, si voterà il 25 maggio non solo per le europee ma anche per le nazionali, così almeno dice Galan, che è un po' il mantra anche di Berlusconi. Vabbè, la politica è questa, cari italiani, ce n'è un po' per arrabbiarsi, ce n'è un po' per dire sempre le stesse cose. Sta di fatto che la politica si interroga anche su quello che sta succedendo a Lampedusa. Prima le immagini diffuse di questa disinfezione di immigrati, poi che cosa? Ieri la protesta anche molto molto forte, di impatto anche visivo, con alcuni immigrati che sono cuciti la bocca, cuciti le labbra per protestare. Ora c'è questa nuova forma di protesta, c'è un deputato del Partito Democratico, l'abbiamo sentito nel GR, l'onorevole Khalid Chaouki, di origine marocchina ma è italiano, padre di due figli, 31 anni, ha deciso, ieri è andato al centro di Lampedusa e poi quando era il caso di uscire ha detto no, sapete che c'è il responsabile del centro, io rimango qui. Rimango qui e oggi su tutti i giornali il deputato barricato nel centro, stanze allagate, niente mensa. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 23, ma Chaouki si vede un po' ovunque, sulla stampa fa un resoconto, a pagina 3, dormo su questa brandina perché l'Italia non può tacere. Khalid Chaouki, la decisione forte, lo ammetto, che ho preso volendomi rinchiudere qui dentro è nata dopo aver visto il volto dei sopravvissuti alla tragedia del 3 ottobre. 7 giovani, tra cui una ragazza, eritrei, salvi per miracolo, oggi ancora rinchiusi qui dentro. Dopo aver salutato alcuni dei superstiti di quel tragico 3 ottobre, ho voluto conoscere anche Khalid, nome di fantasia del giovane siriano che ha documentato le scene vergognose rilanciate dal TG2. Era pallido, seduto all'angolo di una piccola stanza. La prima cosa che mi ha detto è stata «Grazie per la tua visita». Non ce l'ho con gli operatori di questo centro, mi ha detto, ci hanno sempre trattato nel miglior modo possibile, voglio solo uscire di qui perché non ce la facciamo più. Inizia così il resoconto di Khalid Chaouki, viene intervistato anche da Repubblica, resto qui finché non se ne andranno tutti, intervistato da Alessandra Ziniti. Questo posto, dice Chaouki, è indegno di un paese civile come l'Italia, me ne andrò da qui solo dopo che se ne saranno andati anche loro. Ho visto persone in stato di prostrazione psichica e fisica inaccettabile, costrette a dormire in stanze dove piove dentro, senza una doccia con l'acqua calda, con servizi igienici indecenti, sporcizie ovunque, costrette a mangiare dove dormono perché in quella struttura non c'è una mensa. Dunque resterò qui fino a quando non saranno portati via tutti. È inammissibile che ormai da quasi 3 mesi ci siano ancora superstiti dei naufragi del 3 e dell'11 di ottobre qui al centro di Lampedusa. E la protesta continua anche per Repubblica. È andata a intervistare alcune delle persone che sono cucite le labbra con Mauro Favale a pagina 7, siamo trattati come animali, era meglio il carcere, ci tengono rinchiusi per i soldi dello Stato. Cioè il concetto è più siamo qui più fruttiamo dal punto di vista economico, e da questo punto di vista il ministro Cécile Kyenge si rifà viva con un'intervista, questa volta all'Unità, la trovate a pagina 2 e 3. Intanto racconta in questa intervista di Yolanda Bufalini, sono andata alla stazione Termini e mi sono accorta che a dormire in terra alla stazione c'erano molti giovani italiani. Beh, insomma, verrebbe da dire buongiorno, ministra Cécile Kyenge, si è accorta che ci sono anche italiani che hanno perso il posto di lavoro e dormono alla stazione. Comunque, non parliamo di migranti, ma l'emergenza che richiede risposta è quella delle nuove povertà, intervenire sulla qualità della vita delle persone, un impegno che riguarda tutti. Il futuro è investire nell'accoglienza. E poi su Lampedusa, dice la Chienghe, è un centro di primo soccorso e accoglienza, non bisognerebbe stare lì più di 72-96 ore, purtroppo non è mai così. Dopo l'identificazione dovrebbero essere trasferiti alla rete dei CARA, dove si intraprende il percorso per richiedente asilo profugo, ma molti di questi centri sono pieni e diventa impossibile un percorso lineare. Il mio impegno è definire le linee guida per adeguare il nostro sistema dell'accoglienza all'Europa. Vabbè, insomma, le solite dichiarazioni un po' così, che non risolvono granché la questione. Eccoci allora alle 7:49 minuti. C'è chi ci dice: a Siena si lavora oggi e c'è la nebbia. Ma come a Siena? Una delle città più belle d'Italia, la nebbia. Ma no, ma com'è possibile? Si va al lavoro, cioè, ma quanti che mi sia, sono in treno, vado al lavoro con lo schema Allegri, dai! Beh, questo, lo schema Allegri è diventato ormai un mantra straordinario, dai, forza, dai! Ieri tipo al 75esimo si è sentito forte e chiarissimo, e infatti poi abbiamo visto come è andata a finire. Allora, a proposito di politica, oggi c'è un attacco molto duro del giornale al ministro Chienghe. Il titolo è: il PD scarica la Chienghe. E c'è tra l'altro Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, che fa in realtà un j'accuse a tutto il governo. Non parliamo della Chienghe, simpatica congolese naturalizzata italiana, novità assoluta del governo. Mi criticano, sostiene, perché donna e di colore. Non ha capito che l'avevano messa lì senza alcun merito, proprio e solo perché donna e di colore. Si lascia alle spalle qualche centinaio di morti, disperati trattati come bestie nei centri di accoglienza, altri che si cucciono con ago e filo la bocca per protesta. Passerà le cronache per averci fatto conoscere la sua crisi coniugale con un marito italianissimo che l'ha bollata come incapace. Stendiamo un velo pietoso sul ministro Cancellieri, imposta e protetta manco fosse un panda da napolitano. Ha trascinato il governo nello scandalo di Gresti, quello del serial killer in permesso premio. Insomma, e così continua Sallusti, ne ha per tutti, Alfano, per il ministro Brai, per la ministra anche Emma Bonino, sulla questione dei Marò. E che vedremo tra poco, sulla ministra Lorenzin per la questione stamina. Ecco, a proposito di stamina, continuano le polemiche sulla vicenda del metodo in Italia portato da Davide Vannoni. Le accuse lanciate dalla stampa, perché c'è un procedimento giudiziario portato avanti dal PM Guariniello a Torino. Ebbene, sono accuse molto forti. Ora il titolo è anche questo. Sulla stampa ogni giorno c'è un titolo sempre più duro. Questo è il nuovo: stamina, nuove accuse. Vannoni si fingeva medico, racconta Paolo Russo. Si stringe il cerchio delle indagini giudiziarie intorno a stamina, chi ne avrebbe favorito l'ingresso negli ospedali pubblici italiani senza uno studio, un test o qualcosa che documentasse la situazione, la sicurezza e la presunzione di efficacia. I testimoni sembrano ormai far la fila davanti alla stanza del procuratore Guariniello. I pazienti che avrebbero denunciato di essere stati raggirati per decine di migliaia di euro sarebbero ormai saliti a 70. Alcuni di loro riferiscono di un Vannoni in camice bianco e zoccoli ai piedi, che così sarebbe stato fatto girare tra i pazienti degli ospedali civili di Brescia, facendo confondere la sua qualifica di professore in sociologia con quella di medico. Queste le accuse. Tra l'altro, ora anche il giornale fa una pagina dal titolo: i sei misteri da chiarire sul metodo stamina. Tra l'altro, ora le accuse volano anche sul piano della comunicazione. Per esempio, la stampa va a intervistare Davide Parenti, che è l'autore storico delle Iene. Le Iene, il programma che ha fatto almeno una ventina di servizi sul metodo stamina, si difende però Parenti. Noi schierati a favore abbiamo solo raccontato. C'è una sola parola per descrivere quello che noi abbiamo fatto, dice Parenti. Abbiamo raccontato e racconteremo ancora molto su questa vicenda intricata e contraddittoria. Cercavamo di capire, spiegare. Abbiamo seguito la storia di un bambino di Trapani che ha fatto quella infusione ed è stato un pochissimo meglio, ma è stato meglio, e allora ne abbiamo seguiti altri di bambini malatissimi che da quelle cure compassionevoli traevano un sollievo. Lo dicevano i loro genitori, lo dicevano i medici che lo seguivano. Attenzione, noi non abbiamo mai detto che la cura funziona. Abbiamo visto, rendendone testimonianza, che manda dei segnali. Sono dei condizionamenti psicologici, dei placebo, sono quello che vuole lei, ma ci sono, basta guardare le cartelle cliniche. E alla domanda della stampa, non c'è il rischio, chiede Alessandra Comazzi, che un mezzo potente come la TV sfrutti la disperazione per fare spettacolo? Risponde l'autore delle Iene, abbiamo seguito la storia di Sofia e degli altri bambini con molto rispetto. Può darsi che la madre di Sofia abbia le traveggole, che Vannoni sia un poco di buono, ma noi almeno abbiamo cercato di capire cosa succede, se è vero che ci sono dei piccoli miglioramenti nella salute dei bambini curati con stamina da genitori disperati. Ci sono le cartelle cliniche a dimostrare che qualche miglioramento c'è. Non siamo noi delle Iene a dover dimostrare che i protocolli scientifici sono stati rispettati oppure no. Ma se genitori e medici ci dicono che c'è un miglioramento, non possiamo tacerlo. Insomma, continua questa vicenda stamina a creare molto molto scalpore. Oh, per la questione dei Marò, visto che l'avevo accennata prima, chi è che si è ricordato che ci sarà un altro Natale con i Marò in India? Per la verità lo scorso Natale erano in Italia, poi li abbiamo rispediti in India, vabbè. E comunque, il Natale dei Marò con i figli e il rosario regalato dal Papa, questo è il titolo che trovate in prima pagina del Messaggero, l'articolo di Marco Ventura. Il rosario del Papa tra le mani, la messa di Francesco in streaming da Roma, Massimiliano La Torre prepara il suo Natale indiano. Il rosario è quello che gli ha consegnato l'ordinario militare d'Italia, Monsignor Santo Marcianò, nella visita del 5 dicembre a Delhi, insieme al comandante della brigata San Marco. Insomma, un Natale con il fiato sospeso. Pare che l'8 gennaio ci sia il passaggio formale a un tribunale speciale, anche se incombe quella che è chiamata la spada di Damocle, vale a dire il processo e una possibile condanna. La vicenda tutt'altro che finita, quella dei Marò. Vi segnalo anche, prima di andare verso la conclusione, due pagine di Repubblica interessanti sui profughi cristiani in Siria. Si avvicina il Natale, anche per le confessioni religiose, la quindicina di sette che si rifanno alla Chiesa di Roma, sparse tra la Siria, Libano e Iraq, essere cristiani in quei paesi non è certamente facile. Allora, tra i profughi cristiani di Siria, Alberto Stabile racconta dal Libano: Al-Qaeda ci dà la caccia, un altro Natale di esilio e paura. Sono due pagine molto belle di racconto che trovate su Repubblica a pagina 24 e 25. Con anche Monsignor Sacola, il patriarca di Babilonia, che dice: siamo dimenticati dall'Occidente, vogliamo l'aiuto del Papa. Lo so che molti di voi attendevate, che noia, come siete noiosi, noiosi quanto il derby di ieri, noiosi e fastidiosi. Ah, c'è anche Non Leggerlo, forse, che mi ascolta, lui, Non Leggerlo su Twitter, che mi ha scritto: leggi la Gazzetta, interista, mamma mia, contenti di aver vinto come al solito il derby, come negli ultimi 25 anni da che mi ricordi, dominati come sempre dal Milan, e poi la classica botta di culo e l'Inter. E quanti derby ha vinto così l'Inter? Va bene, bravi, bravi, gioite, gioite, gioite. Allora, per contrappasso, a un noto interista, a un notissimo interista, Beppe Severgnini, oggi va il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, per contrappassone all'interista Beppe Severgnini, che in prima pagina, pensate, non a pagina 50, ma in prima pagina del Corriere della Sera, fa questo titolo: ma di cosa parleremo al cenone? Di cosa parleremo? Beppe Severgnini, pranzo di Natale. E poi la piccola guida per un pranzo senza liti. Evitare alcuni argomenti: i matrimoni omosessuali, i matrimoni allargati, individuare subito i possibili piantagrane, evitare i temi ereditari. Ma Severgnini, ma chi se ne frega? Ma mangiate tranquillamente lo zampone e le lenticchie. E ricordati che la carta costa, anche tu.